is gonna be. Metà della visione, i vega sullo why. Yes, everything is gonna be alright. Ma scengo mi via, ci stanno sempre why. Ne guan ne carudo su mure Berlina. Ci drogano tutto quanto con una specie eroina. Una cosa fina, una cosa molto fina. Why yo, se chiami informazione televisiva. Say yes, everything is gonna be. Metà della visione, i vega sullo why. Yes, everything is gonna be alright. Ma scengo mi via, ci stanno sempre why. Si caccia stanno i why a colpi chi l'umore là. Qua, quattro mattone in quell'intera umanità. Ma i popoli dell'esmo l'hanno intata in terra. Mo cagno tutta cosa, farnesce pure a guerra. Festeggiamenti, gioia internazionale. E mo è pernuto l'incubo secolare. La libertà, la democrazia, il comunismo hanno spazzato via. I vega sullo why. Yes, everything is gonna be alright. Ma scengo mi via, ci stanno sempre why. Non tenno manco scuola, ne fa passano pararanno. Cacca l'americana, una fatta, una tutana, 10.000 tonnellate. E bomba sull'Iraq, io terza munna, la chiappata, una davota, mi zeppa. Che succede adesso in Jugoslavia? Si chiavano e mazzata, boh, posso essere l'aria. Ma nessuno si mette in mezzo, l'ONU su sta là. Tanto ci sta, poca magna. Say yes, everything is gonna be metà della visione, i vega sullo why. Yes, everything is gonna be alright. Ma scengo in mezzo a via, ci stanno sempre why. Sempre why, o fronte polisario. S'accirano ancora per un chilometro e Sahara. Non stagna niente in Colombia, in Salvador. E noi festeggiamo, puro conquistador. Say yes, everything is gonna be metà della visione, i vega sullo why. Yes, everything is gonna be alright. Ma scengo in mezzo a via, ci stanno sempre why. Why, yo, è caduta, o mure Berlina. Marinte, quartiere, sempre ghinere. E ciao se scuno hai abbassato ma io sono ancora disoccupate. Onica, onica stamana polizia. E senza detto stanno sempre mezza via. È morto pure un sacco comunista ma l'immigrato e vattene fascista. Say yes, everything is gonna be metà della visione, i vega sullo why. Yes, everything is gonna be alright. Ma scengo mezza via, ci stanno sempre why. Sempre guai. Hey Mr. Babylon, non sai niente, metana passa, po' cazzo con ma guan e perché. Era naro successo Mr. Babylon, tu te fai a coca e io mi piglio caffè. Fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon. Fettina, fettina, fettina, fettina, fettina, fettina, fettina, fettina, fettina, fettina, fettina, fettina, fettina, fettina, fettina, fettina, fettina, fettina, fight, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, be alright, fight in Babylon, fight in Babylon, fight in Babylon, be alright, fettina, fettina, fight, fight in Babylon, fight in Babylon, be alright, fettina, fettina, fight, fight in Babylon, fight in Babylon, be alright. Fight in a Babylon. Some people got no mercy, mercy, mercy.